Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. A tutte quelle radio. A tutte quelle radio. È un pezzo che spacca e chi lo suona colorato. Fanculo fa fanculo, fanculo a tutte quelle radio che passano la musica su cui hanno investito. Come una donna che ha sempre lo stesso vestito. Che schifo. Ammira questo paese, qualcuno sta giocando sporco è palese. Il lavoro di un anno contro quello di un mese è come un camion in contromano sulla Paulese. I vecchi nei grandi palazzi decidono, la radio, gli show, la TV, la stampa ci uccidono in qualunque settore. Il prezzo da pagare è troppo caro come il lettore. In Italia le radio con le canzoni rap fanno come le troie, senza mutande non le mettono. I giovani sul rap ci scommettono come i numeri sulle roulette o Silvio sulle soubrette. Quindi fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. A tutte quelle radio. A tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. A tutte quelle radio. A tutte quelle radio. Questi ragazzini paragonano i rapper come fossero calciatori. Musica e pallone allo stesso piano, tipo domenica sportiva, partita IVA. La gente resta a casa, prima partiva l'italiano depresso che vive un po' alla volta, la testa a volte in sogni di svolta che salgono come l'età. Salto di qualità al tasso di mortalità. Tanta moda in radio passano in moda. Faccia pezzettini queste rime come fanno i clienti. Gli spacciatori nella testa ho sempre un giro di piano che fa dormi, dormi, dormi, fa non mi fa dormire. Volevi, volevi, volevi più stile, aspetta, ricarica le pile. Dicono che dopo la fatica di fare una cosa fatta male, se l'avessi fatta bene ci sarebbe voluto lo stesso tempo. Aspetta, fammela rifare. Dicono che dopo la fatica di fare una cosa fatta male, se l'avessi fatta bene ci sarebbe voluto lo stesso tempo. L'ho rifatta meglio, come disse il chirurgo Pamela Anderson. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. A tutte quelle radio. A tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. Fanculo a tutte quelle radio. A tutte quelle radio. A tutte quelle radio. Prende l'esempio. È una radio, c'è un gruppo di sfigati che non sanno cosa fanno. E questi. Ah, ecco, ecco, allora, perché devono esistere radio dove la gente non capisce un cazzo? Ma allora, radio è un gruppo di sfigati. Ancora. Gli sfigati di merda, perché si permettono anche di togliere il mio disco dalle classifiche su internet. Sì, ma non puoi venire qui a farlo, perché sennò finisce qui l'intervista. Vabbè, senti, quando ti incontrano per la strada, cosa ti dicono i ragazzi? Mi dicono, ma perché certe radio non ti passano? Ancora! Ha ha ha.